in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, bentrovati alla rassegna stampa di Radio 24. Scorriamo insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi, che hanno delle aperture un po' diverse perché i grandi quotidiani hanno tutti delle interviste in esclusiva e su queste titolano, interviste ai ministri o nel caso del Corriere proprio al Premier. E poi naturalmente c'è quello che è successo ieri con la finale di Coppa Italia, di cui avete sentito tutto nei GR. La finale è stata vinta dal Napoli, ma non è tanto questa la notizia quanto naturalmente quella dei disordini e del ferimento di un tifoso che è in pericolo di vita. Quindi vediamo il Corriere della Sera, che come vi dicevo titola sull'intervista che ha, cioè quella a Matteo Renzi fatta da Aldo Cazzullo, che è ormai direi un renzologo professionista perché è anche l'autore di una sorta di manifesto sulle intenzioni, sul manifesto politico di Matteo Renzi. Il titolo è "I sindacati non mi fermano", perché questa è la cosa più, diciamo, il punto più di cui si discute di più nell'intervista, ma come vedremo anche in tanti altri giornali. Renzi appunto spiega quante resistenze dai prefetti e ai segretari comunali e spiega la sua strategia, poi naturalmente parla anche di Grillo. L'intervista, come dicevo, richiamata in prima pagina e poi occupa tutta la pagina 6. Vi segnalo accanto la lettera che Silvio Berlusconi ha inviato al Corriere della Sera, che viene intitolata "Presidenzialismo, la vera riforma". Questo è infatti quello che ribadisce l'ex premier, ex cavaliere del lavoro. Vi leggo le prime righe, la lettera poi nella sua interezza viene pubblicata a pagina 9. "Caro direttore, tra i paradossi di questa fase storica c'è anche quello di far passare per sabotatori delle riforme gli unici che possono rivendicare di averne fatta una. Una riforma di grande respiro realizzata dal nostro governo nel 2005 che solo la consueta propaganda irresponsabile della sinistra ha tanto demonizzato da riuscire a bocciarla con il referendum del 2006. Poco conta che oggi tanti, proprio a sinistra, sussurrino che quella bocciatura fu un errore". Quindi prosegue un po' anche l'offensiva di Silvio Berlusconi per difendere quello che secondo lui di buono hanno fatto i suoi governi. Vi segnalo tra l'altro anche il commento di Dario Di Vico, che poi inizia in prima pagina e trovate a pagina 34, proprio sulla questione del ruolo del sindacato. Di Vico parte da un episodio del primo maggio in cui i sindacati hanno costretto i lavoratori a non lavorare nel giorno del primo maggio, la festa dei lavoratori, per esempio al Colosseo. Quindi il Colosseo come monumento storico è rimasto chiuso e la delusione dei turisti è stata tanta, la delusione anche lo stupore. Scrive Di Vico: "Un sindacato scivolato in commedia, i leader delle tre sigle nazionali non sanno come concludere il rinnovo del contratto e continuano però ad autorizzare astensioni dal lavoro quasi sempre collocate di venerdì. Le occasioni di maggiore visibilità sono gli scioperi dei supermercati contro le aperture festive, il divieto di accesso ai musei nei giorni di maggior appeal turistico, come accaduto al Colosseo il primo maggio, e il blocco del trasporto pubblico locale. Sarebbe però sbagliato trarre la conseguenza che il sindacato è inevitabilmente condannato a sparire, non solo perché la sola CGIL raggiunge 5,7 milioni di tesserati, ma soprattutto perché l'evoluzione dell'economia e del capitalismo vecchio e nuovo è tutta da scrivere". Poi vi dicevo la fotonotizia con naturalmente la cronaca e i commenti a quello che è successo ieri a Roma e due articoli in particolare vi segnalo: il retroscena di Fiorenza Sarzanini, che è una grande esperta anche di tutto quello che è la parte legale delle questioni. Quindi Fiorenza Sarzanini ci spiega come dalla questura sia arrivato a un certo punto l'ordine di giocare. E poi invece il commento di Mario Sconcerti, grande commentatore sportivo del Corriere della Sera, non assuefarsi all'illegalità. La prima pagina della Repubblica è dedicata, proprio il titolo è proprio su Roma. La Repubblica del resto è un quotidiano di Roma. "Spari tra i tifosi, vi uccido tutti, terrore a Roma". Sono tre gli articoli che vengono richiamati in prima pagina. Il racconto, perché poi i giornali, tutti i quotidiani mettono questa vicenda nelle prime due, tre, quattro pagine appunto dell'edizione di oggi, quindi il racconto che poi trovate a pagina 2, l'assalto al chiosco di quel pazzo ubriaco, perché l'incidente di cui vi dicevamo non è avvenuto allo stadio ma fuori dallo stadio e prima della partita. Il retroscena di Carlo Bonini, scesi in campo per evitare l'inferno. Sapete che per circa 15-20 minuti, forse anche di più, è stato in forse l'inizio della partita, poi si è deciso di giocare. E l'analisi di Maurizio Crosetti, anche qui un commentatore sportivo della Repubblica: "Curva padrona, stato sconfitto". Vi dicevo, ogni quotidiano ha la sua intervista. La Repubblica ha un'intervista fatta da Francesco Bei al ministro della difesa Pinotti, e che parla di Ucraina ma anche di tante altre cose, ne leggeremo poi un pezzo. La prima pagina del Sole 24 Ore invece è dedicata a Del Rio, al sottosegretario Del Rio, perché anche in questo caso c'è un'intervista di Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, per gli statali premi legati al PIL. Questo è uno dei temi toccati, sapete c'è un cantiere proprio sulla riforma della pubblica amministrazione. C'è anche un virgolettato nel richiamare l'intervista a Del Rio, che poi trovate a pagina 3. Se non ci fanno fare le riforme si va a votare, dice il sottosegretario di Renzi, che sapete è uno degli uomini più vicini a Renzi in assoluto. Poi come sempre sul Sole 24 Ore della domenica l'intervento di Bruno Forte, l'arcivescovo di Chieti Vasco, l'uomo tra teologia e psicologia, richiamata in prima pagina, trovate poi a pagina 8. E poi la lettera al risparmiatore, dove sapete Vittorio Carlini, il nostro collega di finanza, si concentra sempre su un titolo quotato. Oggi è Esprinet, come si voglia pronunciare, perché in realtà è un'azienda che nasce in Francia ma molto forte anche in Italia. È un'azienda che si occupa, per così dire, di intermediazione informatica, cioè offre servizi informatici, e scrive Carlini, scommette su Italia e Spagna e sul risveglio della spesa high tech. Trovate l'analisi del bilancio 2013 di questa azienda e tutte le prospettive per appunto chi volesse investire, da qui il titolo della rubrica Lettera al risparmiatore, a pagina 16. Il Messaggero a tutta pagina, spari e scontri all'Olimpico, con tutti i retroscena possibili e immaginabili su quello che è successo ieri a Roma. Anche in questo caso un'intervista in esclusiva che viene richiamata in prima pagina al ministro per le riforme Boschi. La legge elettorale sarà approvata entro luglio, prevede il ministro, con forse un po' di wishful thinking. Maria Elena Boschi: quanto alla riforma costituzionale abbiamo preso tutti un impegno, quello che è quello di voler semplificare le istituzioni e accelerare i processi decisionali. E poi un accenno alla trattativa all'Italia, che nei prossimi giorni probabilmente, si spera, arriverà a una conclusione. Sapete che il Messaggero era stato il primo a dare la notizia di questo possibile accordo con la creazione di una new company posseduta al 51% dai soci di Alitalia, al 49% da Etihad, la compagnia di Abu Dhabi. E ora però c'è stato un incontro dell'amministratore delegato di Alitalia del Torchio con le banche, e poi adesso ad Abu Dhabi si deciderà nei prossimi giorni se effettivamente questa soluzione è quella giusta per Alitalia. Vediamo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, Coppa Italia, con una grande foto di quello che è successo ieri a Roma, è fuori dallo stadio, e un commento di Luca Calamai: Renzi niente da rottamare, perché naturalmente ascolterete, leggerete se avrete voglia tantissimi commenti. Il problema è cercare appunto di affrontare questo problema, che in Italia non è ancora stato risolto, a differenza per esempio di quanto è successo in Inghilterra, dove c'erano i famosi e temuti hooligans, dove invece oggi gli stadi sembrano abbastanza sicuri. Ecco, forse è il momento di affrontare veramente il problema della violenza fuori e dentro gli stadi. Poi naturalmente ci sono gli approfondimenti sulle partite di oggi, perché stasera sapete c'è il derby Milan-Inter, con una caccia all'Europa, quella che la Gazzetta dello Sport definisce una caccia all'Europa per entrambe le squadre. La prima pagina della Stampa, anche in questo caso un'altra intervista che viene richiamata in prima pagina al ministro del lavoro Giuliano Poletti: basta con le finte partite IVA. Questo è un altro grande tema, che dopo quello del bonus a chi guadagna meno di 26.000 euro è un altro tema in agenda appunto del governo. C'è una riforma allo studio, e poi parla diffusamente il ministro, poi magari ne leggeremo una parte, di un altro grossissimo problema e straziante problema, che è quello degli esodati, cioè le persone che non hanno più un lavoro ma non sono neanche mature per ricevere una pensione, quindi sono in una sorta di limbo dopo la riforma Fornero. Secondo alcuni calcoli sarebbero 100.000, secondo altri sarebbero forse addirittura tre volte tanto, e appunto Poletti spiega che cosa il governo cercherà di fare per tutte queste persone. L'Unità sceglie di aprire su una notizia che è stata data ieri dal Censis, cioè su quella che il reddito di 10 italiani vale quello di 500.000 operai, e questa è l'apertura dell'Unità. In Italia crescono ancora le disuguaglianze. Poi c'è un accenno a quello che è lo scontro sul decreto sul lavoro, ne avete sentito parlare tanto anche ieri nei GR, e poi naturalmente una fotonotizia per quelli che sono stati appunto gli spari e gli scontri a Roma prima di Fiorentina-Napoli. Il Manifesto ha un'apertura completamente diversa, si intitola L'incendio, ma non è l'incendio di Roma, è il rogo di Odessa, che sapete ha fatto 40 morti. L'Unione Europea ha chiesto un'indagine indipendente. Il governo di Kiev, dell'Ucraina, dichiara di voler proseguire l'offensiva militare contro i separatisti dell'est. E purtroppo, secondo molti commentatori, in Ucraina si sta andando, anche vedendo questi episodi sempre più gravi, con sempre più morti, verso una vera e propria guerra civile. L'Avvenire, ultimo titolo che abbiamo tempo di segnalare prima della pausa sul meteo, ancora un titolo diverso, Il bene dei piccoli viene prima di tutto, è una prima analisi della commissione istituita dal Papa per contrastare la piaga della pedofilia all'interno della Chiesa ma anche fuori. Ci sentiamo tra un attimo, una pausa per il meteo. In primo piano. Buongiorno, bentornati alla rassegna stampa di Radio 24. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, abbiamo visto come tutti abbiano delle fotografie di quello che è successo a Roma e poi però ci siano approfondimenti diversi a seconda soprattutto delle interviste che i vari quotidiani oggi hanno. E parlavamo di quella che il sottosegretario Delrio ha concesso al Sole 24 Ore, al vice direttore Fabrizio Forché, e ve ne leggo alcune parti, la trovate a pagina 3 del Sole di oggi. Il titolo è: in arrivo mini bond e fondo per le PMI. Chiede Fabrizio Forché: tra le difficoltà c'è quella di un Parlamento che non è proprio quello che avreste sognato, a cominciare dai gruppi del PD che a volte sembrano all'opposizione. Risponde Delrio: c'è stata una dialettica, certamente, come è normale che sia, ma credo che finora sia stata positiva. Non si può accusare il Parlamento di aver rallentato più di tanto. Sul lavoro è stata fatta una mediazione, ma alla fine il risultato è ottimo. Le riforme cambiano equilibri, minano interessi ed eliminano i privilegi. È normale che ci sia tensione, ma io ho trovato più resistenze fuori dal Parlamento, nelle corporazioni, nei gruppi di interesse, nelle lobby. Queste resistenze mi preoccupano francamente di più. E vi leggo le ultime due domande che Forché fa a Delrio. Carlo De Benedetti ha pronosticato il voto in autunno. A buone fonti, e risponde Delrio, chiedete a lui. Noi ci auguriamo e crediamo di poter continuare la nostra azione riformista, che quindi non si voti ma che la legislatura arrivi alla sua naturale scadenza. Ma se non vi fanno fare le riforme, chiede Forché, noi non vogliamo tergiversare. Abbiamo avuto il mandato di fare le riforme. Nel momento in cui non ci fossero le condizioni per farlo, sarebbe giusto dare la parola agli elettori, che potranno così giudicare chi vuole fermare le riforme. Dal supplemento Nova del Sole 24 Ore, che viene allegato ogni domenica al Sole, vi segnalo in prima pagina di Nova un intervento di Luca De Biase, che è il responsabile, diciamo, il responsabile di Nova, grande esperto di tecnologia da sempre, che è andato al Festival del giornalismo di Perugia e dove si è parlato molto del ruolo dei giornali, di come si stanno trasformando. Il titolo della rubrica è Internet e il senso delle notizie. Il Festival del giornalismo di Perugia si è vista al Festival del giornalismo di Perugia si è vista la maniera più interessante di reagire appunto al cambiamento imposto da Internet a tutti noi. Una fioritura di concetti, format, iniziative di business sperimentali dalla quale si possono imparare diverse lezioni. E conclude poi De Biase: alcuni puntano sulla proposta di storie lunghe approfondite, altri sul design divertente quasi giocoso, parliamo, aggiungo io, dei quotidiani, di come devono cambiare i quotidiani, altri sulla raccolta di fondi in crowdsourcing. Non tutto funziona e non potrebbe essere altrimenti in un contesto ritmato dall'innovazione, ma l'insieme, si direbbe, comincia a trovare la sua nuova prospettiva. E queste che sto per leggere sono le parole che mi sono sembrate più interessanti. Il giornale non è una somma di notizie, è un progetto culturale che tenta di cercarne un senso. E appunto, a proposito di somma di notizie, invece di cercare di farsi un'opinione, trovare un senso alle notizie, vi dicevo l'intervista che Renzi ha concesso ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, la trovate alla pagina 6 del Corriere. Il titolo che hanno deciso di dare all'intervista è: c'è chi resiste nella classe dirigente ma il sistema non fermerà la rivoluzione. Quindi un po' in linea con quello che Delrio, il sottosegretario Delrio, ha dichiarato al Sole 24 Ore. E vi leggo soprattutto il passaggio sui sindacati. Sta dicendo che anche il sindacato è un elemento di conservazione. Il sindacato non può occuparsi solo di chi il lavoro ce l'ha o di chi è in pensione. Anche i sindacati, come la politica, devono farsi un esame di coscienza, devono cambiare. Sogno un sindacato che nel momento in cui cerchiamo di semplificare le regole dia una mano e non mette i bastoni tra le ruote. Non vogliamo fare tutto da soli. Sulla riforma della pubblica amministrazione aspettiamo anche le loro idee, ma vogliamo che a un certo punto si decida, altrimenti non è politica, è chiacchiericcio. Non vorrei che la polemica derivasse dal fatto che si dimezza il monte ore dei permessi sindacali, che i sindacati saranno obbligati a mettere online ogni centesimo di spesa, non i bilanci che sono spesso illeggibili, ogni centesimo. E vi dicevo, le interviste in esclusiva, c'è quella del ministro della difesa Roberta Pinotti concessa alla Repubblica, che la Repubblica pubblica a pagina 15, l'ha fatta Francesco Bei, il titolo è "L'Italia non può stare a guardare, siamo disposti a inviare una forza di pace in Ucraina", dove abbiamo visto, insomma, i segnali di guerra civile sono sempre di più. Vi leggo però il passaggio sugli F-35, altra questione su cui c'è un po' un rimbalzo, questo acquisto di aerei costosissimi che pesano molto sul bilancio della difesa, però sono frutto di accordi già presi e che quindi è difficile disattendere in nome della spending review. F-35 perché, chiede Francesco Bei, è costoso, il software è tutto americano, non funziona bene, le critiche tra gli esperti di difesa si sprecano e non parliamo dei pacifisti. E risponde Roberta Pinotti: ogni sistema ha bisogno di tempo per essere sviluppato. Certo, oggi questo aereo sembra diventato il simbolo del male, ma mi sembra che ciò sia dovuto soprattutto alla campagna elettorale in corso, come se lo avessimo scoperto adesso. Il programma del nuovo caccia parte nel 1998 e sarà portato a compimento soltanto nel 2030, ma prima di parlare di F-35, di quanti ne dobbiamo acquistare, noi abbiamo deciso di partire da un approccio nuovo. Il libro bianco ci dirà quale minacce dovrà affrontare l'Italia e quali mezzi di difesa serviranno. Quindi, insomma, Roberta Pinotti cerca di riportare tutti a ragionare al di là degli slogan sugli F-35, il cui costo è sicuramente impressionante, però, come appunto è stato detto più volte, non è una spesa che si può tagliare dall'oggi al domani, perché è frutto di un accordo che viene da molto lontano. La Stampa ha invece un'intervista a Giuliano Poletti, ministro del lavoro. Il titolo è "Contratti più chiari per evitare false partite IVA" e vi dicevo però la parte più, forse più interessante, è quella sugli esodati, che adesso eccola qua. "Sugli esodati non si è ancora fatto abbastanza", risponde Poletti. "Con il meccanismo delle salvaguardie ne abbiamo tutelati circa 110.000, ma secondo alcune stime, tutte da verificare, le persone sarebbero in tutto 290.000. Mercoledì 7 faremo una riunione con il Tesoro, l'INPS, i rappresentanti delle commissioni parlamentari per discutere una soluzione definitiva". E invece poi passiamo al Messaggero, che ha ancora un'altra intervista, questa volta Maria Elena Boschi, ministro per le riforme. Il titolo è "Legge elettorale Italicum entro luglio", e dicevamo questo impegno che tutti i ministri del governo Renzi ribadiscono fondamentale, cioè quello preso con gli italiani delle riforme, e quindi il tema tra l'altro anche delle divisioni tra il PD. La domanda la fa anche Mario Aiello a Maria Elena Boschi: il PD divora sempre i suoi leader, o Renzi stravince all'europeo, comincia l'assalto ai suoi danni? E risponde Maria Elena Boschi: non bisogna dare nulla per scontato, impegnarci fino all'ultimo istante, ma sicuramente il PD farà un buon risultato anche nelle elezioni amministrative. Le europee non sono in ogni caso un sondaggio su Renzi. Sto andando in giro lungo l'Italia per la campagna elettorale e le assicuro che tra i nostri elettori e nel nostro partito non vedo alcuna voglia di riaprire la battaglia congressuale. Tutt'altro, c'è molta fiducia nei confronti di questo governo e molta unità nel PD. E anche qui una domanda sulle elezioni anticipate: se il vostro partito fa il botto il 25 maggio, che sapete la data in cui tutti andremo a votare per le elezioni europee, si andrà a elezioni anticipate? Guardando ai sondaggi potremmo avere questa tentazione, ma noi pensiamo all'interesse generale e a mantenere gli impegni che abbiamo preso e non ai sondaggi. Poi c'è anche una domanda sull'intervista a Piero Pelù. Piero Pelù poi in realtà ha dato interviste a tutti i quotidiani, quindi qualsiasi quotidiano compriate avrete anche l'intervista a Piero Pelù, che sapete dal palco del concertone del 1° maggio ha detto che Matteo Renzi è un Gelli boy, cioè uno che conosce, che ha frequentato Licio Gelli, fondatore della loggia P2. In realtà Matteo Renzi ha smentito di aver mai incontrato Licio Gelli, insomma una polemica un po' così che Pelù sta anche un po' cavalcando, perché ripeto ha poi concesso interviste a tutti i giornali. Sull'unità c'è l'approfondimento su quel titolo che abbiamo visto del rapporto Censis, che ha stabilito che ci sono 10 uomini più ricchi d'Italia, possiedono un patrimonio di 75 miliardi di euro, che è pari a quello di 500.000 famiglie operai messe insieme. Poi c'è il confronto tra gli stipendi di 20 anni fa e di oggi, di un operaio, di un imprenditore, di un libero professionista e di un dirigente. Ma dall'unità vi segnalo un interessante bellissima intervista a Zev Sternel, che è forse il più grande storico israeliano vivente, a 68 ha scritto moltissimi libri e scrive: a 68 anni dalla nascita dello Stato ebraico, questo autorevole storico ci avverte, nella società si sta affermando il revisionismo sionista da popolo eletto. Naturalmente Zev Sternel è ebreo ed è per questo che appunto le sue parole forse sono ancora più da ascoltare con attenzione. Vi leggo una domanda: c'è chi paventa il rischio che, proseguendo l'occupazione, Israele possa trasformarsi in uno stato di apartheid. Non si tratta di un rischio, è qualcosa che già si sta determinando nella realtà quotidiana, negli atti compiuti dalle autorità e nella percezione di sé e dell'altro che è nel tratto ideologico. L'idea per cui se il palestinese o l'arabo israeliano vuole essere tollerato, deve accettare la propria inferiorità. E siccome credo sia sempre questo del conflitto infinito, purtroppo, appunto, arabo-palestinese, è un'altra delle grandi questioni internazionali su cui ogni tanto spegniamo i fari, salvo poi magari riaccenderli quando c'è un attentato che ci ricorda che purtroppo nulla è risolto di quel conflitto. Ci lasciamo un attimo per le informazioni sul traffico, ci ritroviamo subito dopo per l'ultima parte della rassegna stampa. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Vi segnalo, per alleggerire un pochino, visto che abbiamo parlato anche di conflitti e di quello che è successo ieri a Roma con i gravissimi disordini e tra l'altro un tifoso in fin di vita in ospedale, per alleggerire un pochino vi segnalo un articolo del Giornale a pagina 21 di Oscar Grazioli, che spessissimo si occupa dei temi che riguardano gli animali, e ci racconta come grazie a un nuovo provvedimento ora cani e gatti sono i benvenuti, potranno farsi la cuccia tra gli scavi di Pompei, un microchip li renderà inquilini legittimi. Spesso appunto gli animali, soprattutto i gatti, formano delle colonie in questi parchi archeologici. Chi conosce un pochino Roma per esempio sa della bellissima colonia felina di Largo di Torre Argentina, che è questa spettacolare area archeologica proprio nel super centro di Roma, e Oscar Grazioli ci racconta di questa colonia dove sono ospitati 250 gatti, ma anche appunto della possibilità che gatti e magari anche cani vengano ospitati tra gli scavi di Pompei. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo invece un approfondimento politico di Wanda Marra su una questione. Abbiamo detto, il 25 maggio votiamo per le elezioni europee, dopodiché ci sarà non solo un nuovo Parlamento europeo, ma anche una nuova Commissione europea, che è il governo dell'Unione europea. E Wanda Marra ci racconta come al posto dell'attuale commissario Tajani, Antonio Tajani, ci sono tre in corsa, sarebbero Letta, D'Alema e Fassino. Renzi dovrà indicare il successore di Tajani, appunto. Il leader massimo, cioè D'Alema, uno dei soprannomi di D'Alema, sta facendo carte false, ma Enrico Letta è un avversario temibile, ci spiega in questo retroscena Wanda Marra. Poi vi segnalo una lunga intervista sempre sul Fatto a Giovanni Sartori, politologo, chiamiamolo così, che compie 90 anni e insomma parla di tutto, delle sue passioni, anche dei suoi amori, perché si è sposato da poco con una ragazza che ha 35 anni meno di lui. Il salto con gli sci, Kant per sonnifero e la zuppa in scatola, così riassume nel titolo Il Fatto le passioni appunto di Giovanni Sartori. Ma passiamo ai supplementi della domenica, supplementi culturali. Forse abbiamo tutti un pochino più di tempo oggi per leggere. Prima però un'ultima segnalazione dell'Avvenire, perché è l'unico giornale dove ho trovato questa notizia. Tra 5 giorni in Sudafrica si vota, tra 3 giorni, mercoledì, a pochi giorni dall'anniversario delle elezioni di Madiba, il paese torna alle urne per la scelta dei deputati che designeranno il capo dello Stato. L'ANC, l'African National Congress, che è il partito di Mandela, rimane in testa ma può perdere consensi perché l'economia arranca e restano le discriminazioni. Quindi un approfondimento, appunto, anche questo un merito dell'Avvenire, che ci parla di argomenti che magari gli altri grandi giornali dimenticano, mentre il Sudafrica è sicuramente un grandissimo laboratorio, lo è stato e lo è ancora. Abbiamo visto come Zev Sternel abbia paura di un nuovo apartheid in Israele, ecco, il Sudafrica, dove l'apartheid per tanti anni è esistito e poi è stato sconfitto. Però ancora oggi, ci ricorda l'Avvenire, il 70% della terra è controllata dai bianchi, che costituiscono appena il 10% della popolazione. Quindi è chiaro, una ricetta per un certo quantità di contrasti sociali. Ma vediamo la prima pagina della domenica. Come sempre vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Il sospetto. La citazione da cui parte è una citazione della scrittrice Colette: cominciate a spiare il vostro vicino, ciò basterà a trasformarlo in un criminale. Infatti la rubrica oggi si chiama Il sospetto e commenta Gianfranco Ravasi: sì, spesso i fantasmi li creiamo noi con le nostre paure recondite. Vorrei commentare la battuta dell'anticonformista stravagante Colette, tratta da Camera d'albergo del 1940, con un apologo che trovo in una vecchia raccolta di testi popolari tedeschi. Un giorno, non trovando più un coltello, un uomo iniziò a sospettare dei suoi vicini. Il loro ragazzo si veste come un delinquente e somiglia a un ladro. Dopo un mese di appostamenti e di sospetti sempre più confermati, quell'uomo ritrovò il coltello in fondo a un cassetto dove l'aveva dimenticato. Quando vide di nuovo il figlio dei vicini, si accorse che in realtà si muoveva e parlava come gli altri ragazzi della sua età. Già nel V secolo a.C. il poeta greco Teognide dichiarava che le apparenze spesso traggono in inganno il giudizio, frase reiterata da Seneca, Dante, Molière, Goethe e così via. Il sospetto è un tarlo dell'anima ed è un grande creatore di realtà fittizie, incollate sulle persone così saldamente da risultare sovente verità apparenti. Non giudicate e non sarete giudicati, ammoniva Cristo nel Vangelo di Luca. Dalla prima pagina della domenica vi segnalo anche la rubrica di Roberto Napoletano, il direttore del Sole 24 Ore e anche di Radio 24, che sapete parla sempre un po' di temi del lavoro, di fuga dei cervelli, cioè un po' proprio le basi di quello che potrebbero essere o il disastro dell'Italia se continuiamo a perdere talenti o la sua rinascita se riusciamo a trattenerli e a fare le riforme. Storia italiana di Arianna e della sua professoressa. Arianna Biancalani è appunto una studentessa che ha scritto a Roberto Napoletano dopo essere stata a Siena, e racconta di Siena come una delle tante bellezze forse poco curate del nostro paese, e Roberto Napoletano le risponde e poi conclude: i nostri tesori, per capirli bisogna toccarli con gli occhi e scoprirli sulla vecchia carta. Il mezzo digitale provvederà a moltiplicare questo valore e a farlo conoscere nel mondo. Prima però vengono i contenuti, lo studio e la voglia di impegnarsi, come appunto quello di questa studentessa che ha scritto una mail al direttore Napoletano. Il titolo di copertina è in realtà dedicato ad Andrea Camilleri, di cui esce adesso una raccolta della rubrica, quella che si chiamava Posa Cenere, che era per tante settimane è stata ospitata alla domenica del Sole 24 Ore, quindi dal 6 novembre 2011 alla fine del 2012. Era appunto una piccola rubrica e ora viene raccolta in questo libro della UTET che si chiama Segnali di fumo, in libreria dal 6 maggio. Le riflessioni nate per la domenica diventano un libro, boccate di poesia, di infanzia, di storia, di ignoranza italica, tra un mozzicone e l'altro, perché sapete che Andrea Camilleri è famoso non solo per i suoi libri ma anche per essere un incallito fumatore. Dalla pagina 30 della domenica vi segnalo un approfondimento di Stefano Salis sulle copertine disegnate da David Pearson, uno dei più importanti grafici, anche un ragazzo giovane che adesso gli viene dedicata questa mostra a Nantes e poi anche che poi andrà a Londra, e viene definito da Stefano Salis il più bravo creatore delle prime pagine dei libri, cioè delle copertine, con quello che Salis definisce un ottimo uso della tipografia e dettagli geometrici con scelte vincenti. Sapete che a volte appunto il successo di un libro è dato anche da quanto ci colpisce la sua copertina in libreria. La lettura, che come sapete ha sempre una copertina fatta da un artista, questa volta è Andrea Branzi, e dall'interno però vi segnalo un articolo di Luca Bottura che scrive anche per il Corriere della Sera in generale al lunedì, così con un po', sempre un po' al limite tra il nonsense e la satira. In generale commenta le sciocchezze, lo sciocchiziario del calcio dei due giorni precedenti. Oggi però si dedica al benaltrismo, il postulato del benaltrismo, riflessione in forma di satira sul vizio di considerare più rilevante un problema diverso da quello di cui si sta discutendo. Cioè tu dici: ma il problema è questo? No, il problema è un altro. Dalla politica al web fino alla televisione non si salva nessuno. E poi vi segnalo una lunga recensione di Cristina Taglietti a un libro di Antonio Spadaro, gesuita, che si interroga sulla spiritualità nella letteratura americana, quindi uno sguardo religioso, gesuita è anche Papa Francesco, c'è un articolo anche sulla domenica su un libro appunto sui gesuiti, e tra l'altro con proprio uno stralcio di quello che scrive Papa Francesco, e in questo caso però è lo sguardo di un gesuita appunto sulla letteratura americana. americana, non necessariamente di scrittori cattolici o credenti. E l'ultima segnalazione, una delle ultimissime segnalazioni che ho tempo di farvi: dall'8 al 12 maggio a Torino ci sarà il Salone del Libro e il Corriere della Lettura del Corriere della Sera ha una serie di approfondimenti su autori che saranno presenti. Uno è Frans de Waal, che è un etologo sudafricano e ha scritto tantissimi libri interessantissimi soprattutto sulla mente degli animali, e infatti il suo intervento riportato perché, come vi dicevo, sarà poi presente a Torino, l'incontro è previsto per sabato prossimo, il 10 di maggio, e questo stralcio di intervento si intitola "Il polpo ragiona con i tentacoli" e sintetizza la lettura: è un errore misurare l'intelligenza degli animali adattando test fatti su misura per l'uomo. Esperimenti mirati dimostrano che hanno ormai enormi capacità cognitive diverse ovviamente dalle nostre. Era veramente l'ultima segnalazione, vi auguro un'ottima domenica e mi raccomando, i giornali leggeteli oggi con più cura, sono pieni di approfondimenti.